fu riferito a Davide: «Ecco, i Filistei stanno combattendo contro Cheila e stanno saccheggiando le aie». Davide consultò il Signore dicendo: «Potrò andare a battere quei Filistei?» Il Signore rispose a Davide: «Va, batterai i Filistei e salverai Cheila». Ma gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco, noi siamo pieni di paura qui in Giuda, quanto più andando a Cheila contro le schiere dei Filistei». Davide consultò una seconda volta il Signore ed egli gli rispose: «Alzati, scendi a Cheila, perché io metterò i Filistei nelle tue mani». Allora Davide andò con i suoi uomini a Cheila, dette battaglia ai Filistei, catturò i loro bestiami e inflisse loro una dura sconfitta. Così Davide salvò gli abitanti di Cheila. Quando Ebiatar, figlio di Achimelech, fuggì presso Davide, discese a Cheila con l'efod in mano. Fu riferito a Saul che Davide era entrato a Cheila. Allora Saul disse: «Dio l'ha consegnato in mio potere, perché si è chiuso entrando in una città munita di porte e di sbarra». Saul convocò tutto il popolo alla guerra per discendere a Cheila e stringere d'assedio Davide e i suoi uomini. Davide comprese che Saul stava macchinando dei mali contro di lui e disse al sacerdote Ebiatar: «Avvicina l'efod». Davide disse: «Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha inteso dire che Saul sta cercando di venire a Cheila per distruggere la città a causa mia. I principali di Cheila mi consegneranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha inteso dire? Signore, Dio di Israele, de, fallo sapere al tuo servo». Il Signore rispose: «Scenderà». Riprese Davide: «I principali di Cheila mi consegneranno insieme con i miei uomini nella mano di Saul?» Il Signore rispose: «Vi consegneranno». Allora Davide e i suoi uomini, circa 600, uscirono da Cheila e vagarono all'avventura. Quando Saul ebbe la notizia che Davide si era messo in salvo da Cheila, desistette dalla spedizione. Davide abitò nel deserto tra i dirupi, abitò nella montagna, nel deserto di Zif. Saul gli dava la caccia tutti i giorni, ma Dio non lo consegnò nelle sue mani. Davide sapeva che Saul era uscito per attentare alla sua vita. Egli stava allora nel deserto di Zif a corsa. Jonata, figlio di Saul, si mosse e andò da Davide a corsa per infondergli coraggio in nome di Dio. Gli disse: «Non temere, perché la mano di mio padre Saul non ti potrà raggiungere. Anzi, tu regnerai su Israele e io ti sarò secondo. Anche mio padre Saul sa che è così». I due conclusero un patto alla presenza del Signore. Poi Davide rimase a corsa, mentre Jonata ritornò a casa sua. Alcuni zifiti salirono a Gaba e dissero a Saul: «Davide non sta nascosto presso di noi, tra i dirupi a corsa, ma sulla collina di Cachilà, che è a sud di Jesimon? Or dunque, per tutta la brama che hai di scendere, o re, scendi, a noi il consegnarlo nelle mani del re». Rispose Saul: «Siate benedetti dal Signore, che avete avuto compassione di me. Andate dunque, assicuratevi ancora, cercate di individuare e vedere il luogo dove si posa il suo piede. Chi l'ha veduto là? Perché mi è stato detto: egli è molto astuto. Osservate e informatevi di tutti i nascondigli dove si possa rifugiare. Poi ritornate da me con la conferma e verrò con voi, se sarà nella zona, lo ricercherò in tutti i casati di Giuda. Essi partirono e ritornarono a Zif precedendo Saul. Intanto Davide e i suoi uomini erano nel deserto di Maon, nella steppa a sud di Jesimon. Saul andò con i suoi uomini a dargli la caccia, ma alcuni lo riferirono a Davide, il quale discese nel dirupo e rimase nel deserto di Maon. Quando Saul lo udì, si pose all'inseguimento di Davide nel deserto di Maon. Saul marciava da un versante del monte e Davide con i suoi uomini dall'altro versante del monte. Mentre Davide, spaventato, cercava di sfuggire dalla faccia di Saul, e Saul e i suoi uomini stavano accerchiando Davide e i suoi uomini per catturarli, arrivò un messaggero a dire a Saul: «Su, sbrigati, parti, perché i Filistei hanno invaso il paese». Così Saul cessò dall'inseguimento di Davide e marciò contro i Filistei. Per questo quel luogo fu chiamato Rupe della Separazione.